Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Mickey Mouse, alias Topolino. Uno dei personaggi più noti dell'animazione, dei fumetti, ma anche un'icona da cui la cultura popolare del Novecento non può certo prescindere. Dietro la silhouette inconfondibile di Topolino, quella testolina sferica con due grandi orecchie, si cela una multinazionale tra le più vaste e potenti del mondo, almeno nel settore delle comunicazioni e dei media. Si tratta della Disney. Con la nostra storia di oggi andiamo a scoprire proprio le origini del successo della casa di produzione di Los Angeles. Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star. All who come to this happy place. Benvenuti in questo luogo felice, benvenuti. Disneyland è a casa vostra. Qui è possibile dimenticare le sofferenze del passato e ritrovare le sfide e le energie per affrontare il futuro. Disneyland è dedicata agli ideali, ai sogni e alle emozioni che hanno creato l'America, con la speranza che possa essere una fonte di gioia e di ispirazione per tutto il mondo. Grazie. 17 luglio 1955, siamo ad Anaheim, provincia di Los Angeles. Quello che avete sentito è il discorso di inaugurazione del primo parco di divertimenti tematico del mondo, Disneyland. A pronunciarlo, il suo creatore, il nostro primo personaggio di oggi. Stiamo naturalmente parlando di Walt Disney. Walt Disney. Tutto in una notte. È il successo di Walt Disney, un uomo che ha capito in una piovosa notte newyorkese che la sua vita, costellata di sacrifici, delusioni, battaglie e tradimenti, sarebbe finalmente approdata al successo. È la notte del 18 novembre 1928. Siamo al Colony Theatre di New York. Gli effetti che sentite in sottofondo sono quelli del film Gang War. È il primo film di guerra sonoro della storia del cinema. In questi primi anni di cinema sonoro, un po' per ammortizzare le spese, un po' per attirare più pubblico, è usanza dei gestori dei cinema abbinare a un lungometraggio un piccolo cortometraggio, spesso di animazione. Al termine di questo film di guerra, infatti, verrà proiettato Steamboat Willie. È la prima apparizione sullo schermo del mitico Topolino. Al termine della prima proiezione di Steamboat Willie, il pubblico newyorkese esplode in un'ovazione incontenibile. Il piccolo gioiello d'animazione, che visto oggi commuove per tenerezza e ingenuità, ottiene un successo quasi insperato. Si scatena il passaparola e per un anno le sale in cui il corto viene mostrato, abbinato a lungometraggi diversi, fanno il tutto esaurito. Prima a New York e poi negli States. Con gli eccezionali incassi, nasce la Disney Brothers Production. Chi è esattamente Walt Disney? Beh, innanzitutto possiamo dire che si tratta del discendente di un'antichissima famiglia di origini francesi. Il nome Disney è infatti la contrazione del francese Disigny, cognome del XIX secolo. Walter nasce però a Chicago nel 1901 da famiglia americana, ma di discendenza irlandese-canadese da parte di padre e tedesca da parte di madre, quarto di cinque figli. I suoi genitori si chiamano Flora Cole ed Elias Disney. Per diverse vicissitudini familiari, infanzia e adolescenza di Walt Disney sono fatte di continue peregrinazioni durante le quali scopre la propria grandissima passione per il disegno. Quando si trova a Chicago, presso il liceo McKinley, si occupa delle illustrazioni del giornalino scolastico degli alunni intitolato The Voices. Nell'estate del 1917 trova un impiego come distributore di giornali sui treni, ma è fortemente attratto dall'esperienza bellica. Falsifica il passaporto per far risultare l'età adatta per l'arruolamento e parte per l'Europa come autista di ambulanze. Walt è molto legato a un fratello, Roy, con cui condivide la passione per i disegni. Anche Roy parte per la guerra, nella marina militare, e quando i fratelli si congedano, ritrovandosi a Chicago, decidono che è tempo di fare qualcosa insieme. Gli anni 20, i ruggenti anni 20 negli States, sono anche il decennio del cinema. Il grande protagonista del cinema americano di questi anni è Charlie Chaplin. Walt Disney è affascinato dal grande attore e regista, letteralmente innamorato del suo vagabondo, di cui non perde nemmeno un film. Finita la guerra, cerca tramite conoscenze di famiglia di entrare in contatto proprio con Charlot, senza successo. Walt Disney, però, e si capisce sin da questi primi anni, è un grande sognatore. Un uomo che tenta di trasformare l'impossibile in realtà, di dare corpo e anima alle sue grandi fantasie. Le sue passioni, il cinema e il disegno, si fondono nel primo vero lavoro che riesce a ottenere presso l'agenzia pubblicitaria Pesman Rubin Commercial Art Studio. Percepisce $50 al mese e si occupa del programma settimanale del Newman Theater, un cinema di New York che offre spesso, tra un film e il successivo, piccoli filmati pubblicitari d'animazione. Ho iniziato disegnando cartoni per la pubblicità, l'ho fatto per anni. È stata un'esperienza utilissima sotto tutti i punti di vista. Mi ha insegnato a disegnare in un contesto professionale, mi ha permesso di ragionare sul senso di quello che disegnavo, sul messaggio che intendevo trasmettere. L'esperienza presso la Pesman Rubin Commercial dura un anno, poi arriva il licenziamento. Ma risulterà a conti fatti un'esperienza di lavoro davvero determinante, e non solo per ciò che Disney apprende in quel contesto, bensì anche per un incontro che cambierà la sua vita. L'incontro con un altro giovane animatore, Ub Iwerks. Ub Iwerks. Ub Iwerks, che tutti chiamano Ub, nasce a Kansas City nel 1901 da genitori olandesi americani. Come Disney, all'inizio degli anni 20, approda al Pressman Rubin Commercial Art Studio, dove anch'egli può mettere in pratica la propria passione per il disegno. Ub è un uomo molto particolare, quasi rinascimentale. Naturalmente predisposto per il disegno a mano libera, si cimenta però anche in costruzioni e invenzioni. Appassionato di ottica, di fotografia, di cinema, fa esperimenti brillanti con macchine fotografiche e cineprese. Costruisce lenti, obiettivi, piedistalli. Insomma, un uomo creativo, brillante, leonardesco, che affascina subito Disney, fin dal loro primo incontro. Ub era semplicemente un genio. Per lui risultavano semplici ed intuitive la maggior parte delle cose che per un uomo comune sono complicate al limite dell'impossibile. Tutti lodavano l'arte di Ub, i suoi scherzi divertenti e il suo nome. La bizzarria del nome di Ub è un bene. Fa in modo che le persone lo guardino due volte quando lo incontrano. Gli animatori di New York si tolgono il cappello di fronte alle sue animazioni. Disney e Iwerks hanno entrambi 20 anni quando vengono licenziati. Il loro affiatamento è tale che decidono di aprire un'attività col nome Iwerks Disney Studio Commercial Artists e iniziano a realizzare autonomamente i loro corti pubblicitari. Poi Walt fa domanda d'assunzione presso la Kansas City Slide Company, società che produceva filmati pubblicitari per i cinema. Viene assunto e Ub lo segue. Sembra per il momento un semplice sodalizio artistico. Non è così, perché nelle mani, nella penna di Ub Iwerks, si cela l'idea che cambierà per sempre la vita di entrambi. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I'll be the sunlight. Walt Disney e Ub Iwerks, Due amici che si incontrano giovanissimi. Il primo è una miniera di idee. Il secondo è il genio in grado di trasformarle in realtà. Negli anni 20, però, la loro strada per il successo è ricca di difficoltà. I due tentano a più riprese di sfondare, ma non ce la fanno. Nel 1923 Disney si inventa Alice Comedies, un film che prevedeva l'interazione tra un personaggio reale e le creazioni animate. Il progetto prevede la trasposizione in disegni animati del libro di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie, combinando tra loro riprese dal vero e disegni animati, come racconta lo stesso Ab Iwerks. Era un'idea ispirata ai film dei fratelli Marx e Dave Fleischer per il ciclo Out of the Inkwell, in cui alcuni personaggi prendono vita uscendo fuori dal calamaio. Combinare animazione e personaggi in carne ed ossa era innovativo ai tempi. Poi è diventato all'ordine del giorno. Per la realizzazione di questa versione ibrida di Alice nel Paese delle Meraviglie, Iwerks è il vero motore del progetto. Il suo genio umoristico nelle gag, la sua tecnica quasi magica e la sua velocità nel disegnare le vignette permettono un rapido sviluppo del progetto. Davvero genio poliedrico, Iwerks introduce anche alcune innovazioni tecniche riguardanti i fogli di acetato su cui si disegnano i soggetti. Modifiche talmente all'avanguardia da spingere un'azienda chimica tra le più famose nella produzione dei materiali cinematografici e a comprargli l'idea per il brevetto di un foglio molto sottile e versatile, ancora oggi usato nelle animazioni. Tuttavia, prima che la realizzazione del film termini, i soldi finiscono e la produzione almeno temporaneamente chiude. La produzione si trasferisce di nuovo in cerca di fortuna. Meta Los Angeles, Burbank per la precisione. Qui vicino a Hollywood non ci sono ancora studi di animazione. Walt ritrova il fratello Roy e chiude un accordo con Margaret Winkler e Charles Mintz, ex dirigenti della Warner Bros. La produzione di Alice può ripartire. La protagonista era una bambina ricciuta di nome Virginia Davis, che nelle prime sequenze del filmato visita uno studio e chiede ai cartoonist Walt Disney, Ab Iwerks, Hugh Harman e Rudy Ising di disegnare per lei qualche personaggio buffo. Ogni film viene pagato a Disney $1,500 alla consegna. Un buon prezzo, dato che i costi effettivi per ogni short sono calcolati intorno alla metà. Attenendosi al progetto annunciato, Walt realizza un cortometraggio dopo l'altro, la Alice's Comedies, che avevano dei legami sempre più labili con l'eroina di Carroll. Alice fu terminata e il successo tanto cercato sembra arrivare. Nel 1927 Disney sente il bisogno di creare un'alternativa di Alice e Ab subito crea un nuovo personaggio, il coniglio Oswald, protagonista di una nuova serie animata. Durante la realizzazione di Oswald, Ab apporta notevoli innovazioni tecniche al fumetto, che interessano tutti gli aspetti del processo di animazione. Acquista tre miniere da cui estrarre i materiali necessari per i pigmenti dei vari colori, lavorandoli per ottenere una tavolozza di vernici speciali utilizzate fino alla metà degli anni Ottanta. Introduce poi delle modifiche nella procedura di animazione per rendere uniforme l'aspetto delle vignette e realizza nuovi dispositivi meccanici che migliorano notevolmente la velocità delle azioni, come è evidente nel cortometraggio Cow, 1927, un'avventura particolarmente vivace di Oswald. Sembra che Disney e Iwerks abbiano raggiunto il successo definitivamente. Non è così. Dipendono ancora da qualcuno, Charles Mintz, il quale riserva loro una pessima sorpresa. Scarica Disney e Iwerks assumendo alcuni dei loro collaboratori e si appropria del personaggio di Oswald grazie a un'assurda clausola legale. Ab e Walt sono a terra. Qui però accade l'imprevedibile, quel colpo d'ali del genio che permette a Disney di entrare nella storia. È il 27 ottobre 1927. Ab Iwerks è appena rientrato a New York dopo aver accompagnato Walt Disney a Los Angeles per l'ultima estenuante e violentissima lite con Mintz. Sul tavolo da disegno di casa Iwerks ci sono degli schizzi del coniglio Oswald, il personaggio di punta che si sono appena visti sottrarre. Iwerks lo osserva e mentre lo guarda, chissà perché, gli viene in mente un racconto che gli aveva fatto la moglie di Walt, una storiella divertente riguardante un piccolo topo che Disney aveva addomesticato e che aveva chiamato Mortimer. Che brutto nome, pensa Ab. Poi però si siede al tavolo, prende la matita e inizia a disegnare. Tratto dopo tratto, tavola dopo tavola, il coniglio Oswald perde le proprie orecchie e si trasforma in un simpatico topo con la faccia da teppistello. In 10 ore di disegno ininterrotto, Iwerks disegna qualcosa come 700 tavole, che finiscono immediatamente il giorno dopo sul tavolo dell'amico Walt. In quella straordinaria notte di furore creativo, Ab Iwerks aveva senza saperlo reso Walt Disney ciò che oggi rappresenta per tutti noi. Il 18 novembre 1928, data da cui siamo partiti, ci sarà anche lui accanto a Disney a raccogliere gli applausi per il trionfo della prima di Topolino. La storia della loro amicizia si può dividere in una fase prima di Topolino e una fase dopo Topolino. Il prima ve l'abbiamo appena raccontato, il dopo tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. La Walt Disney, da quasi 70 anni, regala a grandi e piccini sogni ed emozioni attraverso meravigliose storie di animazione. Il suo creatore, il mitico Walter Disney, deve buona parte del suo successo alla creazione di un personaggio diventato presto un'icona popolare, Mickey Mouse, alias Topolino. Topolino! La nascita di Topolino è in larga parte dovuta all'incontro tra Disney e il disegnatore Ab Iwerks, genio dell'animazione, che in una notte di estasi creativa disegna oltre 700 tavole che hanno il celebre topo come protagonista e che si trasformeranno in Steamboat Willie, il primo mitico cortometraggio della Walt Disney, un successo clamoroso. Il nome Mickey Mouse viene ideato da Lillian Disney, la moglie di Walt. Il personaggio viene prima testato da Disney e Iwerks in altri corti, in un ruolo da comprimario. Si tratta di Plain Crazy e Galloping Gaucho, piccoli gioielli che non riescono a trovare un distributore. Questo insuccesso non scoraggia il duo, che vuole a tutti i costi fare uscire Steamboat Willie, come ricorda lo stesso Disney. Per ottenere i soldi per produrre il corto dovetti vendere l'auto. Poi c'era il problema del sonoro. Pat Powers, un imprenditore, aveva accettato di finanziare la distribuzione del cortometraggio, ma questo avrebbe dovuto essere sonoro per trovare spazio in abbinamento ad un film. Ricordo che riuscii a procurarmi un Cinephone, un sistema per sincronizzare audio e video, probabilmente rubato, di contrabbando. Fu una vera e propria impresa. Come abbiamo detto, il 18 novembre 1928, Steamboat Willie viene proiettato al Colony Theatre di New York. Si tratta anche del primo cartone animato con il sonoro sincronizzato della storia del cinema. Questa data è di fatto la data di nascita non solo di Topolino, ma anche di Minnie e di Gamba di Legno in italiano, in inglese Bootleg Pete. Il film è un trionfo che va al di là di ogni più rosea aspettativa. Fu un grande successo. Qui contribuì senz'altro il sonoro sincronizzato, che era una novità. In quei primi film, poi la voce di Topolino era la mia, una cosa che trovavo molto divertente. Incassato il successo dell'esordio, Disney e Iwerks si gettano subito in un nuovo progetto che permetta loro di capitalizzare l'improvvisa notorietà mediatica del loro personaggio. È il 1929. Dopo aver assoldato il compositore Carl Stalling, il tandem trasforma i semplici cortometraggi fin qui realizzati in cartoni animati musicali chiamati Silly Symphonies. Questi debuttano con The Skeleton Dance, mitico cartoon che influenzerà anche tutti i più moderni animatori, da Tim Burton a Ken Park. Quello stesso anno, Disney autorizza l'uso delle proprie creazioni su dei prodotti derivati come dei block notes o delle matite. Nasce la Walt Disney Enterprises per gestire il marchio. Disney e Iwerks hanno realizzato il loro sogno. I I sogni, quelli belli, non vorremmo finissero mai. Però purtroppo a un certo punto ci si deve svegliare. Per Disney e Iwerks il risveglio ha il sapore amaro di una brusca separazione. I due uomini che hanno costruito insieme il mito di Topolino si dividono a causa di una serie di divergenze più economiche che artistiche. Forse Iwerks non vede riconosciuti abbastanza i propri meriti. Forse Disney trova troppo ingombrante la collaborazione con un artista estroso e imprevedibile come Iwerks. Fatto sta che nel 1930 Disney firma un nuovo contratto di distribuzione con Columbia Pictures e abbandona Pat Powers, produttore dei suoi primi lavori. Pat Powers offre il suo appoggio a Ab Iwerks, proponendogli un contratto in esclusiva. I due vecchi amici divengono rivali a tutti gli effetti. Il neonato Iwerks Studio produce 3 serie animate. Flip the Frog, 37 episodi che hanno per protagonista un simpatico ranocchio creato da Iwerks nell'agosto del 1930 e disegnato per uno degli ultimi corti delle Silly Symphonies, mentre lavora ancora alla Disney. Una volta autonomo, Ab lo porta con sé e scrive la serie con l'aiuto di Pat Powers. Il primo episodio è anche il primo cartoon sonoro a colori della storia del cinema. Le altre due serie si intitolano Willy Whopper e Comic Color Cartoons. Questi cartoni animati non sono mai stati trasmessi in televisione, anche se molti di essi sono diventati un cult nel corso degli anni. Opere tecnicamente brillanti, ma la cui satira tagliente non gode di largo consenso tra il pubblico. Lo studio Disney, dal canto suo, soffre in un primo tempo per la perdita del suo più grande e dotato artista, ma a differenza di quanto prospettavano Iwerks e Powers, invece di capitolare, riesce a superare la crisi quasi subito, grazie a nuovi e talentuosi animatori, che pur di lavorare per uno studio ormai prestigioso, accettano la paga ridotta. Nel 1931 Topolino compare in 12 film, tra cui The Moose Hunt, dove il cane Pluto adotta il suo nome definitivo. Un anno dopo si verificano due eventi chiave per i Walt Disney Studio. Da un lato l'uscita di I Tre Porcellini, un cartoon destinato a diventare storico. Dall'altra l'inizio della collaborazione con la United Artists, che garantisce un'ottima distribuzione ai cartoon. Sempre in quell'anno, Flower and Trees, corto sperimentale della Disney, vince il primo Oscar riservato dall'Academy ai film d'animazione. Il successo spinge Disney a licenziare molti altri prodotti derivati dai cartoon, tra cui spiccano i fumetti su Topolino, che diventano poi i famosi giornalini diffusi in tutto il mondo. Il primo giornale di Topolino viene pubblicato in Italia alla fine del 1932. Mentre gli studi continuano a produrre cortometraggi a un ritmo forsennato, gli introiti derivanti dalle serie sono appena sufficienti per Disney, che manda avanti gli studi senza creare utili. Walt decide allora che è arrivato il momento di produrre un lungometraggio. Una sera del 1934, con i suoi animatori, guarda un film muto che aveva visto da bambino. Si intitola Biancaneve. Protagonista Margaret Clark. Per Disney è l'idea vincente, da trasformare in una sceneggiatura. Quando il resto dell'industria cinematografica, Iwerks incluso, viene a sapere del progetto disneyano di produrre un lungometraggio animato su Biancaneve, definiscono quell'idea la follia di Disney, convintissimi che il progetto lo porterà al fallimento. Anche la moglie Lillian e il fratello Roy cercano di convincere Walt a rinunciare al progetto. Ricevevo da tutti quanti ammonimenti severi sulla necessità di abbandonare il progetto. Sembrava anche ai miei amici più stretti un autentico suicidio. Per fortuna non li ho ascoltati. Biancaneve e i sette nani è il titolo scelto per il film. La produzione dura 2 lunghi anni, dal 1935 al 1937. All'inizio del 1937 Disney rimane senza soldi. Si profila l'ipotesi di una clamorosa sconfitta, di una umiliante interruzione. Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai. Mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai. Vedi di smetterla con questa assurdità. La canzone sciolta come chi la canterà. Per trovare i finanziamenti necessari per concludere Biancaneve, Disney deve mostrare un estratto non terminato del film ai responsabili finanziari della Bank of America. I fondi gli vengono concessi. Il film completo debutta al Carthay Circle Theatre di Hollywood il 21 dicembre 1937. Alla fine della proiezione il pubblico gli rende omaggio con una standing ovation di 10 minuti. Biancaneve è anche il primo lungometraggio animato in inglese e in Technicolor. Viene distribuito nel febbraio 1938 dalla RKO e diventa rapidamente un incredibile campione di incassi. Racimola più di 8 milioni di dollari del tempo, una cifra pari a 98 milioni di dollari di oggi. Questo clamoroso successo permette a Disney di costruire a Burbank un nuovo complesso in stile campus universitario per ospitare i Walt Disney Studios e il CalArts, il California Arts Institute. Questi aprono il 24 dicembre 1939. In tutto questo, il vecchio compagno Iwerks osserva a bocca asciutta. Ma si sa, le favole hanno sempre un lieto fine. Biancaneve, il film che sancisce il successo definitivo di Disney, è una favola. Per cui anche il rapporto fiabesco tra Iwerks e Disney trova la strada per la riappacificazione. Tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. Che avete sentito è un estratto da Biancaneve, il primo lungometraggio animato della storia del cinema, datato 1937. Oggi a Destini Incrociati, infatti, stiamo raccontando la storia di Walt Disney e del percorso che lo porta a diventare una leggenda del cinema di animazione. Un percorso che vede la sua svolta in un incrocio, quello con Abe Iwerks, straordinario artista e creatore di Topolino. Iwerks e Disney, grandi amici sin dall'adolescenza, si separano polemicamente poco dopo il successo ottenuto dal primo cortometraggio che vede Topolino protagonista. Una separazione che porta però a situazioni radicalmente opposte. Walt Disney trasforma la sua piccola società in uno dei più influenti studi di produzione dello show business. Per il vecchio amico Ab, le cose non vanno così bene. Il periodo che ho trascorso fuori dalla Disney è stato un periodo veramente duro. Purtroppo non ho mai posseduto una mentalità imprenditoriale e un fiuto per gli affari, cosa che Disney, pur essendo un sognatore, possedeva. L'Iwerks Studio, infatti, finisce presto per soccombere alla creatività e all'organizzazione della stessa Disney e dei nascenti Fleischer Studios, creatori di Popeye. Dopo 6 anni, nel 1936, Pat Powers e gli altri finanziatori ritirano il loro appoggio economico allo studio, che fallisce dopo poco tempo. Non è una cosa semplice tornare sui propri passi, chiedere scusa, ammettere i propri errori. Abe Iwerks nel 1937 decide di farlo. Una lunga cena a Hollywood con il vecchio amico Walt Disney segna la riappacificazione. Walt è più che felice di riavere nel suo team un artista geniale e straordinario come Iwerks, che con altrettanto slancio riprende il suo posto tra i creativi dello studio. Per entrambi si apre una nuova pagina di successi nel segno dell'innovazione. We're happy amigos, no matter where he goes, the 1, 2 and 3 goes, we're always together. We're 3 happy chappies with snappy serappies, you'll find us beneath our sombreros. We're brave and we'll stay so, we're bright as a peso, we say so, the 3 caballeros. Tornato all'ovile, Abe Iwerks si impegna in un processo creativo di rinnovamento destinato a lasciare il segno nella storia del cinema. Innanzitutto dà un contributo fondamentale alla nascita di 2 capolavori come Pinocchio e Fantasia, nuovi lungometraggi della Walt Disney. Mi chiamo Lucignolo. E tu? Pinocchio! Pinocchio esce il 7 febbraio 1940 a New York e, pur ricevendo un'ottima accoglienza del pubblico, risente della crisi sul mercato europeo dovuta alla guerra. Fantasia, proiettato il 13 novembre 1940 al Colony Theatre di Broadway, è un completo fiasco sul piano economico, ma rivisto oggi risulta ancora un'autentica gioia per gli occhi. Ab inoltre collabora attivamente con i tecnici Disney allo sviluppo della tecnologia della multiplane camera. Si tratta di un sistema di ripresa audio-video all'avanguardia che permette la combinazione di animazione e live action. Un procedimento modernissimo e lungimirante che segnerà nel profondo anche l'animazione degli ultimi decenni. Vogliamo cominciare? È un gioco però, vero Mary Poppins? Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene! Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Grazie ad Iwerks nascono classici Disney come i Tre Caballeros, La capanna dello zio Tom, Mary Poppins, Pomi d'ottone e Manici di scopa, film in cui attraverso l'utilizzo di stampanti e sistemi fotografici speciali il team dei grafici Disney riesce a creare illusioni ottiche che rendono disegno e animazione molto più puliti e gradevoli e soprattutto rendono possibile combinare figure disegnate e attori in carne ed ossa. Il pettino sul nido fa un po' di soffio ma non ha che compito scappar di qua e di là. La ritrovata sintonia tra Walt Disney e Ab Iwerks porta la Disney su una strada che sembra lastricata d'oro. A metà degli anni 40, Walt condivide con l'amico un suo grande desiderio: dare forma, materia e corpo ai suoi sogni, creando un parco divertimenti dove i dipendenti possano trascorrere del tempo coi figli. Lo vorrebbe chiamare Disneyland. Iwerks lo aiuta a tracciare e disegnare i progetti. Pochi anni dopo nasce la Wed Enterprise, filiale della Disney che si occupa proprio della realizzazione e dello sviluppo del parco. Voglio che Disneyland sia il luogo più meraviglioso della Terra e che un treno faccia il giro del parco. Ben presto l'idea si trasforma nella volontà di costruire in tutto il mondo parchi tematici dove i visitatori possano interagire coi personaggi della grande mitologia Disney. Il primo parco nasce ad Anaheim, vicino Los Angeles, in California, nel 1955. Walt Disney's Disneyland. Il sontuoso parco divertimenti è un monumento brulicante di vita e di gioia all'immaginazione e alla fantasia. Disney ne è il padre, ma la penna magica di Ab Iwerks, The Hand Behind the Mouse, come recita il titolo di una sua recente biografia, ha rivestito un'importanza fondamentale per trasformare la Disney in ciò che è ora. Iwerks muore per un attacco cardiaco nel 1971 a Burbank. Prima però l'establishment gli riconosce l'importanza che merita. Nel 1960 e nel 1965 vince l'Oscar in una categoria particolare, quella che premia le innovazioni tecnologiche. Nel 1964 la collaborazione con Hitchcock per gli effetti speciali di Gli Uccelli gli vale una nomination. Insomma, il sistema, seppur in extremis, si accorge di questo genio assoluto, il vero e autentico padre di Topolino. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.